Italia in controluce. Oggi è il 7 ottobre della seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che racconta in due edizioni cronaca italiana, nera, giudiziaria, ma anche lo spettacolo, il costume, la curiosità, attraverso i reportage, la narrazione, attraverso i narratori. Buongiorno da Daniele Biacchesi. La prima traccia è certamente cinematografica. Pupi Avati, uno dei grandi registi italiani, racconta a Italia in controluce i suoi ultimi film, Il figlio più piccolo e La strana giovinezza, e parla di come è possibile raccontare l'Italia attraverso il grande schermo. Pupi Avati al microfono di Marta Cagnola. È la storia d'amore che praticamente si è venuta a proporre, a candidare, attraverso una serie di circostanze che attengono anche, ahimè, dolorosamente una situazione familiare che ho vissuto, nella quale mi sono reso conto che esiste un problema, una patologia, una malattia che ha a che fare col tempo, con la regressione. E allora nel vedere appunto in questo congiunto quel bambino che era stato, mi è sembrato originale, singolare e forse anche molto emozionante, struggente, poter raccontare una storia d'amore in cui i ruoli cambiano, l'intensità dell'amore addirittura aumenta, perché non si limita più soltanto a una forma attrattiva fra un uomo e una donna, ma diventa qualcosa di più denso, di più forte. E quindi trasformando, passando da un rapporto fra marito e moglie a un rapporto fra madre e figlio, senza cambiare i soggetti, che rimangono gli stessi, anagraficamente hanno gli stessi nomi, alla stessa età, però mutano i ruoli. Mi sembrava un pretesto narrativo fantastico e lo credo ancora che lo sia, tant'è vero che ho cominciato a scriverlo. E nello scriverlo mi sono molto emozionato, e quando mi succede di emozionarmi, in genere succede che poi si emozionano anche le persone che poi vanno a vedere i miei film. C'è un bambino che scappa e la sua mamma si dispera perché non riesce più a trovarlo. E dove vanno tutti i bambini che scappano? Perché è così segreto e irraggiungibile quel luogo? Perché le loro mamme non sanno trovarlo? Come si dice quando uno interviene fra due che stanno parlando? Si intromette. Si intromette. C'è anche l'Italia in questo film, perché c'è l'Italia di oggi e anche un'Italia che appartiene proprio a lei, perché lei ha messo in scena la sua infanzia, ha messo in scena anche due paesi. Sono due paesi che sono distaccati, scollati, che si rinnegano uno con l'altro. Cioè c'è soprattutto il presente che ha cancellato totalmente quello che è stata la singolare e molto personale l'identità del nostro paese, che se è stato in qualche modo, si è avuto una grande visibilità nel mondo, è stato fortemente attrattiva, fortemente seducente nel mondo, era perché aveva proprio questa identità così forte. La globalizzazione ha fatto sì che tutto l'Occidente in qualche modo si vada via via sempre di più assomigliando, appiattendo su degli atteggiamenti, dei modi che sono quelli di tutti, condivisi, e però insomma che l'hanno spogliato d'una sua identità. Allora questo nostro protagonista Fabrizio Bentivoglio, che è un giornalista sportivo, nell'insorgere del suo male, nella sua regressione, gli si appalesa in un modo, con un itore insospettabile, quello che è stata la sua infanzia, che è appunto quell'Italia alla quale lei alludeva, ed è in quell'Italia alla quale lei alludeva che si va poi a nascondere alla fine. La partita di Catania, vabbè, capita, soprattutto a Lecce, dove, scusa, ma hai sbagliato tutto lo sbagliabile. Comunque non riesco a capire quali sarebbero gli errori che ho fatto nella partita di Lecce, insegnameli tu così io imparo, visto che sei più bravo. Lino Lombardo ti sta chiedendo cosa ha sbagliato con Lecce. Lino, gira le camere, gira le camere, gira le camere. Anche in questo film c'è, e ha detto che lei non guarda la televisione, ma anche in questo film c'è una scena televisiva in uno studio televisivo e c'è proprio la manifestazione pubblica della malattia. Come mai ha scelto questo sguardo sulla televisione? Ma perché essendo un personaggio che ha di successo, essendo un giornalista, un vostro collega ma che si occupa di sport, ma di successo è evidente che il successo di un giornalista dov'è che si appalesa? Nel momento in cui, non so, Mieli va a Ballarò, ecco, oppure a Italo Cucci va alla Domenica Sportiva. Ecco, i giornalisti di successo sono quelli che sono chiamati talk show televisivi. Ecco, quindi questo è veramente la cartina di tornasole del fatto che lui sia un giornalista di grande successo. Italia in controluce. Ostia, Ido Scalo, luogo dove venne trovato morto il poeta e scrittore Pierpaolo Pasolini. Oggi, quel luogo come si è trasformato? Ci è andata Sabrina Pisu. Ostia finisce con la lunga fila di palazzi popolari costruiti negli anni Ottanta dal sindaco Luigi Petroselli. Più avanti i cantieri navali del porto turistico. Gli yacht ancorati fanno dimenticare di essere nell'estrema periferia romana. In fondo c'è l'idroscalo. Da 60 anni sorge dove finisce la strada, dove il mare incontra la foce del Tevere. Baracche, ma anche case vere e proprie, edificate sul demanio pubblico. Poche strade, non tutte asfaltate, e la storia di oltre 500 famiglie. Il luogo di ritrovo è Piazza dei Piroscafi. Qui è iniziato il 23 febbraio scorso lo sgombero. Il racconto di Manuela Fuso, vicepresidente della comunità Foce del Tevere. Tragedie umane indescrivibili. La cosa che più ci ha fatto male è il modo in cui le autorità hanno trattato questa cosa. Gli sgombri sono sempre molto spiacevoli da vedere. Noi praticamente abbiamo appreso la notizia la domenica mattina dal giornale La Repubblica. Martedì mattina sono entrati. Noi non potevamo più né entrare né uscire dall'idroscalo. Camminavamo per strada, ci chiedevano i documenti se eravamo residenti o non qua, e tutta la via dell'idroscalo fino al porto sembrava marcia su Roma. Poliziotti, scavatrici e ruspe per lo sgombero forzato e immediato, come si legge nell'ordinanza, di ogni abitazione esposta al rischio di allagamento. Possiamo essere anche d'accordo, però le cose vanno costruite insieme. Non si può arrivare una mattina, le forze armate sul territorio, 500 cellerini e buttare fuori così la gente. I cittadini chiedono di restare e partecipare alle scelte politiche. Non vogliamo andare in nessun'altra parte di Roma. L'idroscalo secondo me ha quel senso di umanità. Noi la sera stiamo per strada con i nostri figli a chiacchierare, teniamo i nostri cancelli aperti tranquillamente. Noi vogliamo partecipare alla costruzione e alla bonifica di questa zona senza che arrivino e ci buttino fuori così come se fossimo gente di serie B. Il porto è una grande immobiliare in terreno demaniale e qui ci sono interessi economici, dice l'ingegnere Andrea Schiavone, presidente del laboratorio di urbanistica Labur, che ha denunciato gli illeciti sugli sgomberi dell'idroscalo. Se c'è una soluzione che si può mettere in piedi per difendere l'area, si faccia subito e non si faccia dopo aver demolito le case. Loro vogliono buttar giù per poi costruire gli alberghi e nel momento in cui costruiranno gli alberghi faranno le protezioni a fiume. Qui ci sono solamente forti interessi che giocano e speculano sul fatto che l'area è a rischio. Sull'ultima spiaggia rimasta un campo di calcio e le corse dei bambini. Dietro il porto che avanza, i nuovi appartamenti di lusso, le gru. Lungo via dell'idroscalo c'è il luogo in cui il 2 novembre del 1975 è stato assassinato Pierpaolo Pasolini. A conservare la memoria, a salvare dal degrado e dal cemento questa terra, ci ha pensato la Lega Italiana Protezione Uccelli, che l'ha trasformata con l'aiuto dei volontari in un parco, come racconta Alessandro Polinori, responsabile del Centro Habitat Mediterraneo della Lipu di Ostia. A metà anni 90 noi abbiamo fatto una grande battaglia per evitare che nella zona in cui è stato ucciso Pierpaolo Pasolini venisse realizzato un oceanario, una sorta di Disneyland del mare che avrebbe cementificato tutta la foce del Tevere. Siamo riusciti a realizzare un'opera di recupero ambientale e all'interno di questo progetto è stata recuperata l'area in cui è morto Pierpaolo Pasolini. Ci si doveva vergognare che non si potesse nemmeno andare a rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini, perché il luogo della sua scomparsa era una discarica a cielo aperto. Al centro del parco c'è la stele realizzata realizzata da Mario Rosati, sinonimo di Una vita spezzata, un'opera abbandonata per 20 anni. Nel 2004-2005 è stato rifatto completamente il monumento e realizzato un giardino letterario con un sentiero anche bibliografico dedicato all'artista, mentre nel 2007 è stato istituito il Parco Letterario per Paolo Pasolini, una vera e propria istituzione culturale. Il poeta muore proprio nella disperata ma genuina periferia romana che ha amato e raccontato, un delitto che resta un mistero, denuncia da sempre l'amica e scrittrice Dacia Maraini. La morte di Pasolini non è stata risolta. Sembrava risolta avendo trovato un assassino che addirittura si è autoaccusato, Pelosi. Però dopo 30 anni lui stesso ha detto che non era vero, non dice la verità completa, perché lui probabilmente sapeva e sa chi c'era quella sera, però non l'ha voluto dire. Sappiamo di essere di fronte a delle menzogne. La verità è tutta in quel piccolo pezzo di terra all'Idroscalo, dove oggi Pasolini guarda il destino dell'ultima parte di popolo romano che resiste. Tra le baracche che ancora non sono state sfasciate, scrive in una pagina profetica di Una vita violenta, una donna ci si inchioda con la speranza di salvare un po' di roba, raccapezzare tutto quello che c'è per terra e che il fango si porta via, entrando dalle finestre. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Radio24.it è il sito dove potete ascoltare o scaricare attraverso il podcast tutte le trasmissioni di Italia in Controluce. Radio 24, Italia in Controluce su Facebook. Potete inviarci mail a controluce@radio24.it. Domani 6:30 la prima edizione su Radio 24.